tristi e ha cominciato a farsi di fomento. Oh, lo mio sacra, fuggiti, fuggiti, brucio. Io ho visto ieri sera, forse per le 8, qualcosa del genere. Si sono fatto un bel po' di freddo anche qua, ma facevo il giallo chiuso, si è pigiato le raffiche di vento, ma infatti ti ho pensato, ho detto, tutto ne se ne sta rientrato. Poi ho spento un po' che c'erano gente, quindi non sono rimasto. Perché mi avevano fatto nome mio, però no, assolutamente. detto, via, io vi lascio un attimo, faccio un attimo il bianco, infatti c'era Benito, stavo continuando a parlare con Luca, e niente, tanto anche quando se ne era attaccato, gli ha attaccato coso, che poi c'era anche il coso, la barra agricola, no niente, la barra agricola era da coso, da Gino Volcano, no niente, poi ci siamo salutati, ma mai niente, ho chiuso lì, a me non mi piace di ascoltare queste discussioni, cavolo, non me l'ha potuta, capito, me l'ha portata, me l'ha portata, compagna me, ho chiuso perché ho preferito chiudere, non mi frega niente del discorso. Ma è quando parlavi tutti che te l'hanno portato o quando parlava una persona? Chiuso, cioè tanto è inutile parlare, questo mette sempre portante, no, Luca, e il solito ignorante, comunque, come ho detto anch'io, il solito ignorante che mette la portante non è uomo, ci faccio almeno vedere chi mette la portante, e basta, toppire più o meno, poi ho chiuso giustamente perché non mi interessava nulla di scene in particolare, cosa, ognuno sa di sé e compagnia bella. Yeah. scappa di noia. Su con la vita, tu, ehi, non mi dice, la varia è fatta di belle cose, di molte cose, non c'è problema, su. No, ma non ci trovi a pensare, ma come ti chiamano le basse, la buttasse a me, ma ne prega molto a me, io vado a modulare il modulo, quando sento e ritengo opportuno che sono poco gradito, mi costa poco girare la manovellina e vai. Ma potete dedicare, ho detto la roba la uno e. I discorsi sono quelli che chiari, no? Cioè, qua sul 10, disposti, se una persona le fa piacere parlare con te, disposti e via. Non c'è il problema, è che uno che ha l'inchivi, sai che le cifre è un po' particolare. Perciò, poi di sabato, ma di sabato mattina o di sabato stasera, cioè o non di sabato di domenica. Quindi non è manco di cui già te li cavianisti. Infatti da Ludlock 360 cosa? Le 2060 c'è il microfono. Vedi, qua. Oh, è confondibile con l'apparato. Scappa. A te metti la mantova tu così. Ehi, è cominciato 5 minuti di tempo, non è tra una merda. Scappa, sì, un attimo, mi hanno chiamato al telefono, un attimino, riprendo subito. Vai, fa che. Scappa. Siamo qua, siamo qua. Non ci stanno problemi. E allora vieni. Ehi, vabbè, non te l'ho recuperata quella roba. Come domani, pomeriggio quando esco dal lavoro? Ci passo, e così la recupero, tanto dovrei ritrovare quel pomeriggio, no? A tua nipote. Ma lo so, uomo, ma lo so, ci sono andato 2 giorni consecutivi, era sempre in giro, era che va la macchina sempre in giro. Ah, ehi, vabbè. Io ci provo lunedì pomeriggio quando esco dal lavoro, ma se c'è, se no pazienza. E' positivo, io l'ho trovata qua a casa mia sorella, l'ho trovata, l'ho chiamata, ho detto che roba era, ha detto Santa Maria, sto scendendo e tanto sono andando a casa. Ah, positivo. Positivo, positivo. Sì, un attimo che mi salvo la fila. Ehi, qua è paese, sta tranquillo. Ah, d'accordo. Sure. La finestra in cui va si mette molto fine scorso, telefono un po' più ricci. Ho sentito poco cosa stava parlando con Benito, con Falchetto, vai Falchetto. Positivo. Calma Roger, andate bene. Così che il mare è buono, vabbè. Ma facciamo una sera fredda, ho proseguito, sto andando verso Stintino, era bello. Diciamo bello relativamente, c'era un po' di venticello, ma lo volevamo noi, già era riparato, si stava bene. L'acqua non era fredda, diciamo si stava anche bene l'acqua. Penso che sia l'ultimo, anche domenica non sia bel tempo, sarà probabilmente l'ultimo della stagione. Ma almeno sarà l'ultimo, io ne andrò, anche d'inverno. A cosa? Io entro a pescare, capito, la butta. Ah vabbè, quella butta la soluzione, fate il bagno così. Anni che non ci vado, subito dopo che mi sono sposato che non entro d'inverno, ma ho già fatto un po' troppo di estate, la faccio un po' di pesca così, ma fammi un giro più che altro senza uscirci troppo lontano. Ma tu sei passato l'altro giorno davanti all'officina in moto, hai mai suonato? Io? Tu eri? Io già che sono tanto, non mi hai riconosciuto. Dopo ci ho pensato, ho detto, mi mandi una cabassona, sembrava che fosse l'amico di mio cognato, perché un po' qua mi ha detto, no, forse è Coso, è Antonio, infatti poi ci ho pensato. E tu sai, parlano due persone lì pure dall'officina. Io. Non era lui, c'era lui. Vai, qua. Sempre il primo gol, quindi ho visto in messo la prendere agli inizi, diciamo, e stanno facendo vedere un po' di gioco, dai. Avanti, come. Così. Comunque la Roma era rete le due R, ha pareggiato 2-2 all'ultimo minuto di Bologna. Se vuoi a Roma non mi piace quando da Roma ci vuole. Il Sovranieri dovrebbe iniziare a pigliare colpi, perché questa partenza che ha avuto, cioè non ha pigliato il titolo la Lugaglia, e allora ci può già iniziare a parlare di difesa, cioè stai vincendo 2-0, non copri e prendi due gol. C'è qualcosa che non va. Infatti mi dispiace per Ranieri, perché una persona seria la uso già fende a fette, perché sono tutti che sta già dicendo cosa, dei rossi lo stesso, sono ingrati dopo quello che ha fatto l'anno scorso, che era l'ultimo in classifica, l'ha riportato al secondo posto. Cosa va nella Dino ha giù compreso? Ma lo sai che i giocatori a volte sputano sul piatto dove mangiano. Avrei tagliato un po' le gambe, avessi visto, avrebbero giocato a testa bassa, non a testa alta, e anche a quinta, cioè, capisco che l'hanno offeso, però ha reagito male. Ma cosa ha fatto di a quinta? L'ho sentito alla radio, cosa ha combinato? Cosa ha combinato? Ha sentito dei... ha segnato, ha esultato in maniera un po' così, sai, con la sua maniera, e... la tifoseria gli si è girata contro. I soliti gestacci, i soliti, le solite parole che non si dicono contro la tifoseria. È stata chiesta scusa, soprattutto alla squadra, perché non è il suo modo di fare, non è il suo comportamento. Quello l'ha detto in diretta a fine partita quando l'hanno intervistata. Ma va bene, bisogna stare calmi e tranquilli, il gioco del calcio è un gioco un po' particolare, tu mi segni che se entri nervoso non giochi, se poi fai delle cose che non devi fare, alla fin fine non paghi da solo, ma paga tutta la squadra. Allora qua li hanno vinto, qua se non sono perso, e anche se va bene, lui è un ex di turno, non giocava con l'Udinese, non lo so, io una volta, anche questi giocatori, prima tutti i gatti ti muovono sull'altare, ti mettono in alto, tutti dici, tutti non vuoi andare via di quella squadra, ma e poi alla fine giochi con la Juventus e ti comporti anche male. Non sei neanche, sei poco serio, dai. Ecco perché era ex Udinese, lui così, e infatti è successo per quello, capito? Una vita si è fatto con l'Udinese. Vabbè, facciamo sentire la cosa a Benito, se non sa lui. Avanti Benito. No, è sgrasso io. Non è che il calcio non è che io ci vado proprio fatto, ma devo che la Juve il calcio lo seguo. Ma è molto, quando ce n'è la possibilità. Sì, vabbè, non è che la seguiamo in particolare un po' tutti, ma si parla di rispetto reciproco verso la propria squadra, verso la dirigenza, verso anche la tifoseria, che è molto importante. Quindi magari sai, ha segnato contro la sua ex squadra e è esultato in maniera un po' così, e giustamente la tifoseria che lo conosce gli si è rivoltata contro, quindi ma credo non sia successo niente adesso. Vedremo la domenica sportiva stasera. Avanti Antonio. Io vi lascio un attimino, come ho suonato il campanello, Già riprendo fra poco. E io vado a prendere le sigarette. Attenzione, già siamo qua. Avanti Roberto. Hai detto che andò tra Ibrahimovic e Manuel e tifosi interisti? Però stava una bella storia. Dice, la squadra del mio cuore, ho sempre sognato di rivestire questa maglia. La Lavandu se ne è andato con Barcellona. Prima con Barcellona, la squadra del mio cuore, ho sempre sognato. A Mario Villa, la squadra del suo cuore, del suo ideale. Ogni anno, io sono proprio un mercenario. Però è una persona da sputare in faccia, capite? Quella è una persona da sputare in faccia proprio. Però sarà una persona che vale pochissimo, ma in campo non ce n'è più nessuno. Non ce n'è più, ha fatto due gol con Milan. A parte vabbè questo, che non credo che abbia segnato lui. No. L'altro giorno ha fatto due gol micidiali, che sono 30 metri. Uno era una cosa allucinante. E vabbè, tu sai, vabbè, sì, nel calcio sì. E ma cosa c'era l'altro giorno? Là, a Udice o quanto? Calcio calcetto? No, campionato, campionato. Campionato. Terza divisione. Terza divisione. Quello dell'Endas. Campionato, campionato. Abbiamo fatto una squadra. Abbiamo costituito un'associazione. Che si chiama Associazione Sportiva SEMAP, Sede SEMAP di Dilas, siamo in tre. E niente, quindi ci è salito questo pallino, sono presidente, il vicepresidente Gigi Moro, il carrozziere, abbiamo costruito qualcosa così per divertirci. Responsabile perché c'è anche Antonio Cazzo, però arbitra pure Gigi, siamo molto amici. dici, la prima partita c'è l'arbitro Antonio, infatti adesso la prima qui, ma ha detto che non è a bordo, perché è butto fuori, e ha detto, beh, da 1900, sì, la prima partita c'è l'arbitro, la 25 l'arbitro Antonio in caso, poi per la seconda l'arbitro la 10, per la seconda la terza per l'arbitro la 10, sì, sì, l'arbitro. No, scusa, non Gigi, adesso sto dicendo, vabbè Gigi è il fratello, Stefano l'arbitro, Stefano Senes, l'arbitro, Gigi era il mio compagno di scuola, quello che lavorava, grazie Gigi. Allora ora giuro io, perché infatti siamo presenti, ma sono tre fratelli, uno non mi ricordavo come si chiamava, Stefano l'arbitro, non Gigi. Sì, sì, no, li conosco benissimo, sono molto amici, anche con Antonio, tutti li conosco, dico il gruppo. No, c'è una bella organizzazione, a livello amatoriale è un bel torneo quello lì, quello organizzato dall'Enders. Anche se sono squadre veramente frutti, c'è quella Ale Castiglia, quella del Porto Torres, sono squadrone. È quella che stavamo parlando con Antonio Casio invece, proprio di quella. Quella dove c'è il presidente Enrico Bias, e chi dice le cartucce a vero che poi è il presidente del Porto Torres, e quindi lì ci sono le cartucce. A noi abbiamo fatto una bella cosa, ci hanno mandato tutti, abbiamo preso tre petrochite, completo la Sportissimo, dove c'è la sacca completa con tutta per rappresentanza, Parlamento, pantaloncini, calzettoni, magliette, cerchi whey, giubbottone grande, un kit mi ha fatto un prezzo buono, praticamente abbiamo speso 1300 euro, 1350, una cosa del genere. E poi l'iscrizione all'Enders, quella costa 1100 euro, costa quella. Non so, costa perché poi devi pagare le spese arbitrali, eccetera, eccetera. Dimmi una cosa, quando è mezzo, mi dite quanti kit in avete fatto, quanto è venuto a kit? 79 euro, 79 euro a kit, su quelli della Leggera. Anche a Giappone, il vuoto ne avete fatto. Dici, e comunque già il kit, Roberto. Era un ottimo prezzo, un buon prezzo, dai. Noi ci servivamo assolutissimo, poi abbiamo trovato anche un'altra persona, adesso da un paio di anni, ci fa le tre tribune, diciamo, prodotti validi dello stesso, ma assolutissimo è all'avanguardia, niente da dire, si è andato bene. Diciamo, si è consultato l'amo con me, ma ecco, cosa c'hai, preferenze da qualche altra parte, poi no, non mi ho piaciuto. Passo a te perché c'è più esperienza, quindi ma qua noi come squadra ci siamo sempre serviti da Sportissimo, ci conosciamo bene, non ho detto niente, sono anche lì e ho ordinato, ci ha fatto vedere sul catalogo questo kit, abbiamo preso subito, sono già arrivati, ognuno c'è il suo, ho fatto tutto l'elenco e quindi ho dato in rotazione tutto il kit. Poi vediamo a fine campionato si avanza e se no presenza. Non sarà quello il problema. C'è chi si è preso il doppio paio di scarpe, chi ce li aveva già, insomma, andiamo bene là. Ripeto, è un buon campionato e ci sono squadre molto molto forti. Adesso il Maravero è forte, poi c'è anche il Caracas che è molto forte, quello che c'è lo riabita Luca. La squadra di Attilio, quella è un bel forte la squadra, me l'ha già detto Antonio, poi ce n'è di Porto Torres, ce n'è altri di Sassari, c'è la Full Time, dice che è fortissima, la conosci tu? Che squadra là? Full Time. Ma sai cosa, un tempo che trovavano uno sponsor, poi vari quei giocatori vanno a giocare con la squadra lì, e ce ne sono squadre furti, perché molta gente che non ha voglia di allenarsi, dice, dimmi questo torneo Enders, mi rivolgo di più, facciamo un allenamento solo, quando non giocano a Vando, e vado a giocare il sabato, la domenica c'è un libero, non sai quanti giocatori furti vanno, se ci sono dei molto alto come livello. Mi sono spaventato, adesso ci sono giocatori che ho visto e seguito, tra l'altro, addirittura ce n'è uno, c'è Giovanni Spezzi che era uno dei migliori difensori del Perfuras, a se gioca con la Full Time. E c'è Gavino Sancho che giocava con l'Aero e gioca con la Full Time. E ce n'è un bel cazzo, un bel ce n'è. Guardate perché televisione, per televisione siete qua. Sì, beh, iniziamo in televisione, speriamo di poter fare qualcosa, salito in prima, poi si vedrà, dai. Comunque i giocatori ci sono, la squadra è molto forte, anche questa mia è abbastanza forte, poi si vedrà in campo, speriamo bene. Adesso ti ripeto, sabato abbiamo la prima, la partita inaugurale, quindi insomma, vediamo un po' tutti i giocatori, e poi il 6 di novembre inizia il campionato. Ah, già fammi ritornare la data di inizio. Sì, mi sta dicendo Antonio che se è tutto pronto, le iscrizioni, tutto, e insomma, si parte il 6. Male andando hanno dato una decina di giorni, quindi al 20. Il 20 deve per forza iniziare il campionato, perché sono poi troppo tardi. Quindi o il 6, se è tutto ok, per il momento dice che mancano pochissime squadre ancora, ma cioè, come dire, balle polvere. No, io ho fatto fare tutto per tempo, sono già pronto praticamente, ho già fatto anche iscrizione, venerdì siamo andati con la iniziare il campionato. Quello abbiamo concordato con Antonio, proprio perché giustamente loro se ne andavano a mettere i soldi per le tessere, per tutta la parte amministrativa che c'era da spendere, capito? Per il resto siamo già pronti. Abbiamo già provato tutte le fotografie, tutti i certificati medici. E ne manca uno che mi pare che era lavoro, quindi dovrebbe andare questa settimana a fare la visita medica, ma gli altri l'hanno tutti fatta. È meglio fare la visita medica, importante, succederà che cosa, il presidente è il primo che ci passa e poi tutto il resto. Non ho parlato chiaro, vabbè, non voglio avere problemi con nessuno, è un torneo come sai, è laboratoriale, quindi non siamo ragazzini. Personalmente chi non può giocare, pazienza, però io ho sempre certificato medico, ma non fagiuro, perché intanto poi mi formo e non ci sono problemi, perché se ci sono certificati fagiuri, intanto non faccio giocare. Perciò tutti, compreso anche io, chi ho fatto la visita medica, l'ho fatta da Pietro Moroso, se lo conosce, bravissimo giocatore di pallone, assassino a quell'aereo, dottor Moro, cugino di Gigi, l'ho fatto anche io, ma non perché devo giocare, però sai, gli allenamenti, è giusto che sei idoneo anche per correre, per bere due calci, per stare in compagnia, niente, io di quello non posso fare, ti ripeto, perché ho una piastrina, l'avevo messo 3 anni fa, certificato medico alla mano, perché altrimenti non si gioca a pallone. Già ho capito, con la responsabilità poi se c'è qualcosa da fare, prima di tutto il presidente. Facciamo riprendere gli altri, se no stiamo monopolizzando. Avanti, prima Antonio, poi l'altro, Benito. Tu mi ha detto che si allontanava, è arrivata gente, Benito è andato a prendersi i sigaretti. Ah, pensavo a fumare, se stai andando a prendere, sento il fumare lì. Ehi, già sono tornato, ecco. C'è un break, mi aspetta. No, sono qua, stavo ascoltando. Non penso se tocca a me o no. Di chi è avanti? Buonasera, Sandro Bono, da Ghero. Oh, Sandro, mi hai sentito dopo tanto. Ti passo l'amico Claudio, dai. Che anche lui è in zona buona, si è messo. Avanti Claudio per Sandro. Ciao Sandro, buonasera, ben ascoltato. Non so se mi ascolti. Buonasera, ben ascoltato dopo tanto. Compagnia mia di Roberto e Benito, non me la metto, non mi arrivo, vabbè, tu te lo passo avanti, Sandro, mi ascolti? A voglia che ti ascolto, diciamo che per ora ne sentivo due, e con più forte sei tu. Qua siamo sui 7, Radio 5, chiuso perfetto, appena più forte di Roberto, dai. E siamo lì, siamo uno dietro l'altro, quindi. dimenticato uno, buonasera a tutti. E lo vedi? Io lo so che qua è agguato qua, no. Carissimo Luca, no. Mica ne sapevo io che ci deve qua. Sono con tutto compresso, me lo dà la mica. benissimo, ma aspetta, è andato bene. Comunque, insomma, tanto va bene. Ok, dai, riprendi il volo, vai Sandro, riprendi. Questa tua modulazione è quella che conoscevo io, quello che stavo usando prima. Questa è bella, acuta e molto chiara. Tutto perfetto. Dovete scusarmi che in tutto questo periodo non sto entrando, però mi capita di rimango in ascolto, sono tra le parti con il lavoratore, come se state contando fuori, quindi non avevo mai modo di trasmettere. Oggi qualche minuto in più e quindi mi sembrate doveroso. Carole. Adesso mi sono seduto bene, forse mi ascolti un po' meglio rispetto a prima, anche se sono un po' gurauco. Avanti bene. Positivo, dai, io comincio ad ascoltarlo un po' meglio adesso. Sai che c'è l'unico che è rimasto via d'Alghero, Non so se lui in zona via d'Alghero oppure in macchina. Comunque niente, dai, il prima usavo il 140 col bianco palacchino da battaglia, ecco dai. Capo, quindi stai ancora inquadrando le regolazioni, perché quello che fate stava sparando forte. Ah vabbè, questo è un altro accoppiamento, dai, tra microfono modificato e palacchino. E questo è quello che avevi sentito qualche anno fa, dai. Prima mi sono messo in dubbio quando sei entrato, che hanno salutato loro, e allora ok, perché sennò da un attimino mi aveva spiazzato. Cappa, sì, questo qua è quello che qualche anno fa, oddio, non c'avevo neanche un anno la KF. Andava, dai, ogni tanto lo uso, dai, però ormai mi sono abituato all'altro, c'è un'altra musica, dai, non prende colpi. Non riceve mondetta, dai, diciamo. È ultimo, dai, avanti. Ok, io sono passato col 440, poco fa stavo andando col 430, Sandro. Noti differenza di modulazione tra il 430 e il 440? Sì, a voglia. Devo dire, allora, come hai detto tu, l'altra come processore sembrava che spingesse molto di più. Proprio per il discorso che c'era una profondità di audio, però è un po' più appunta, questa è un po' più buffa. Questa è più, forse è più la voce che sta abituata a sentirsi, io uso di più questo di apparato. Sì, li alterno Sandro, perché sono molto similari. Però lo stavo lasciando molto fermo, 430 e mi si stava un po' inchiodando, non girava più la ventolina del raffreddamento, il mic fischiava, quindi me l'ho tutto pulito, sistemato e quindi lo sto usando commuto e ce li ho sempre attivi tutti e due. E niente. Allora questo è il 440, hai sentito il 430, adesso ti faccio sentire il 140, commuto di nuovo perché c'ho commutatore 3 e ti faccio sentire il 140, vediamo quale che ti piace più di tutti. Questo di base va bene, però ogni tanto hai dei picchi negativi. Dei picchi negativi? Quindi ci abbiamo il picchio negativo, poi però se siamo fuori accordatura, poi lo controlliamo questo. Adesso commuto e passo con il 140, aspetta. Negativo qua è troppo positivo il picco qua. Tutto a roccia. No, è giusto, e allora mentre modula il picco è positivo, ogni tanto gli fa, allora mi scendeva appena appena quando smetteva di modulare, quando smetteva di parlare c'era solo la contatto, mentre parlava il picco era positivo, poi come faceva un istante la pausa scendeva appena appena, vediamo un po' questo 140. Ok, questo è il mitico 140, come sempre con la TV 150, perché c'è anche quello lì. Niente, secondo te così in linea di massima si assomigliano tutte e tre, ma per me la migliore rimane sempre questa, o c'hai qualche così? Ti sembra qualcosa di diverso tra il 430, 440 e 140? Allora, la prima che persone. La seconda era un po' più scura, un po' più grossa, questa invece è molto più aperta, più alta. Poi per quanto riguarda il segnale, questo è identico ai distretti picchi del 430, invece il 440 aveva una portante più alta, forse non so se fare controllo di forza potente, aveva una portante fissa un po' più alta e appena finivi di modulare ciclo negativo, comunque sì, modulazione migliore è questa delle tre. Prova radio e questo è un po' più sollevato. fino a aspettare, un po' di meno. Qua siamo intorno ai 20-25. 25 modulati o 25 riportante? No, riportante sto parlando. Ah, perché anch'io sono a 30 riportante, ma quando modulo va a 50-60, quindi siccome conosco quella radio, non credo che modulati ti tirando meno di 50 watt. 50-60, buoni buoni, senza piccoli modulazioni, va bene. Ottima, ottima. Luca, non c'è più Luca? Luca ha iniziato la partita poker, vai venire. Ah, è positivo, non lo sento più, come fa, riuscivo a sentire, adesso non lo sento più. A chi è Sandro? Scappa. Avanti Sandro, riprendi. Quasi a 9.10, però la radio di Sandro è più forte. Sì, Sandro va molto bene come formulazione. Ha detto che stai usando Sandro il presidente Lincoln. Sì, sto usando il presidente Lincoln al minimo, con la potenza al minimo, sarà mezzo watt, meno di un watt, poi da dei picchi positivi quasi uno. Sto usando un M300 modificato e poi c'è il 131 allineato apposta a lui in ingresso e allineato apposta sulla pelle, perché ho fatto la stazione con questi tre pezzi bene così. Tu pensa che da meno di mezzo watt fino a picchi di 1-1.5 131 dai 20 agli 80. Sì, ce l'ha di ce l'ha, il BV131 ce l'ha, il 130 era un po' diverso, ma il BV131 ha questa caratteristica qua di appunto dare dei picchi di modulazione in watt allucinanti, l'ho avuto e così. Io ottenevo 3 watt di pilotaggio con accoppiamento appunto in accordata in mezzo. Non mi ha mai creato problemi col baracchino, poi i baracchini li ho tutti messi dentro l'armadio perché ho fatto dei lavori qua, quindi se mettevo anche i baracchini, no, alla fin fine non mi ci stavano tutti gli HF e perciò li ho messi dentro l'armadio. Adesso sto aspettando che Giulio Dollaro mi deve iniziare un'altra base, un altro piano, e quindi i baracchini praticamente da una parte c'è tutta la stazione HF, dall'altra parte mi giro e faccio proprio una base con tutti i baracchini, sia quelli base, sia veicolari, sia portatili, eccetera, proprio per non averli in mezzo ai piedi qua con gli HF e con tutto lì. Allora, visto, fammi un po'. Guarda, 1, 2, 3, prova, tutti e due ci hanno fatto il segnale da vostra parte. Sì, 9, quasi 9, 5, no? No, qua non ci arriva 9, 5. È come Sandro, 8 e mezzo modulato 9. 8 e mezzo modulato 9. Poi si aggenerò giù, giù, quello smitter tuo. Ah, vabbè. Io ho fatto fare una taratura proprio dello smitter quando l'avevo mandato questo a farmi un po' di manutenzione, un po' di cose. Ed era risultato a strumento, era risultato che era leggermente troppo generoso e quindi l'ho fatto appena appena proprio un pelino chiudere. E i segnali sono quelli. Perché la massima scala come la tua, tu sei 960, quindi Falchetto è lì, siete tutti e due lì, quello di Luca è giusto perché è 930. Alghero ho visto Pinangelo, mi arriva sempre col segnale di quando mi arrivava, di come mi arrivava sempre qua da qua su, perciò insomma linea di massima dovrebbe essere a posto. Claudio, come ti arrivo io? Perché io non arrivi, tu non arrivi a me 960, sei 950. No, io l'avevo spedito su questo, insieme a Salvatore da Bianconi, ha fatto tutto il lavoro, ha pulito l'accordatore, mi ha allineato tutto quanto, ha fatto tutto un lavoro, vabbè, due anni fa mi sembra che l'ho fatta, o l'anno scorso, due anni fa l'ho fatto. E io dico 950, cioè 960 la serita, è 6 in mezzo, 940, il trattino grande è il 60, sei lì, quindi per me sei 960, ma anche tu sei 50, 55, va. Ok, avanti. Buonasera. Doppio Bifi, buonasera, ciao Natale. Un saluto a tutti, ben ascoltati. Ho sentito gente poco fa, stasera acceso un attimino, prima di sentire a voi Claudio, un segnale forte su 940 mandando musica, galera. Ma 9 su 5. E il tuo Antone? Su 5 sì. C'ero io, poi c'era anche un altro, eravamo in due, la verità. Poi c'era uno che più fischiava, l'altro non mi ricordo cosa andava a faccere. Poi mi interessavo io poi tanto, ho pigliato a reso un momento per fare due mezzo, poi è rimasto l'ascolto. Ma per pochi si fa 15-20 secondi. Su 5 era, prima stai facendo prove, c'era solo la portante, così. Ehi. C'è anche Sandro Larghero, vediamo se ti ascolta, anche se ti dovrebbe ascoltare benissimo. Avanti Antonio, Antonello per Sandro. Ah, ok, no, mi sono perso perché avanti Antonello per Sandro mi sono schiantato se toccava a me. Sento la portata, sento l'ho già visto, ma non capisco bene quello che dice. Ciao Sandro, saluto Nerizio comunque. Basso, cioè tu vieni, io ti sento bene, ma tu mi senti basso per forza. Stava giù antenna. Purtroppo non riesco a sentire la radio. Noto una cosa molto bella, cioè dei picchi positivi spaventosi, che passi da Santiago 2 a Santiago 5 e 6, che è una bellezza, però la radio non riesco a inquadrarla. Vabbè, io sono con 10 watt tondi tondi, quando modulo sono arrivati quasi a 50. Cioè va bene, già va bene. Però la radio è male, basta, lasciamo vedere. Il microfono c'era anche, adesso va meglio. Mi sembrava di capire dall'ultimo pezzo quando ha detto adesso va meglio. E c'era, siccome c'è un problema di questo microfono, vedete che era un sistema, adesso già conosciamo l'applicazione, parlo in basso. Va bene, avanti, va bene. Però la televisione non ci interessa, Antonio. Adelante Claudio, vai. Io. Non già ti sento, Antone, va bene. Perché è troppo forte, non c'è problema. Ok, avanti, vieni. Ciao Antonello, Pomponio, guarda, vieni. saluto a tutti che mi stanno chiamando. Ciao Antonello, ciao Claudio, ciao Roberto e ciao Alessandro, è quello che c'è da lì, no? Non lo so. Ciao Bedi, ma dove ti sta succedendo? Eh? Ma ci vuole o stai a cosa? Non capisco. Ehi, sto salutando il cucino che mi stanno chiamando da casa, va? Ah, va bene, ok, allora ci sentiamo, volta la carica passiamo, ti stai chiedendo, sono tutti bei, la fattoria. A poppa c'è. Io, un attimo, questa cosa qua. Ehi, grazie che saluto a Benito, ciao Benito, ben sentito. Alle prossimine, vai qua. Anche hai lanciato a me. Ha salutato a Benito, ha salutato. Ciao Benito, saluto il collegamento alle prossime. No, ho entrato mia moglie qua in stanza. Mi ha un po' distratto. Ok, avanti Sandro, le prendi. Yeah. perciò altrimenti mi faccio proprio male, se non sono venuto a farti compagnia. Capito, Salotto? Ma andiamo qui da lui, agganciato. Qualche volta me lo porto anche in una capita così, e faccio vedere a lui, capito? E beh, no, io già l'ho provato un paio di volte con una persona che ci è capitato proprio così, capito, di partire a quest'ora per andare a prendere le spezie di morfina così speciali. Sono andato a fare compagnia, l'ho portato anch'io. Certo, a fare la vita non mi deve fare manovra, però perché se non mi facciano lo morto, però su strada ce l'ho portato anch'io. Ma no, è una cazza, io quello meglio, questa è un'avventura, ma se volte non problema a partire l'avventura, questa non proprio. Ma questo qui se tu lo prendi è una coglia massa, devo avere solamente l'occhio e mettere l'angolo di sinistra del vetro sopra la linea bianca, poi ti metti via, poi dalla non faccio le difficili. Vabbè, ma sempre ti appanno sempre 18 metri e mezzo sabato, non è facile, no? Ti ripeto, su strada non ho problemi, l'ho già fatto benissimo, però manovra no, attraverso solo sì, attraverso solo dentro un buon garage non c'è problema, attraverso solo è una vettura, ma quando c'è rimorchio agganciato mi si fa da non molto, per essere sincero, no? Non ci sono mai riuscito, ci ho provato una volta con Michele, ma no, o Farandini mi ha buttato giù perché lo stavo facendo piangere, no? Non riuscivo a metterlo dritto, capito? A metterlo dritto per sganciarlo, non c'era Cristo, non ci riuscivo. E allora niente, ok. Avanti, Robert, ripeti. Di nostro dentro adesso sarà in mezzo bisticcia. Ma stavo ascoltando con le cerve 7000 a coso. L'ascolto meglio con 7000 con l'antenna piccolina che è duramato, ma lo usare? Quella è un'antenna larga banda. È chiaro che nella radiazione superiore dovresti saperlo questo. Non sto studiando la radiazione dell'antenna. L'antenna larga banda sono sempre superiori rispetto alla verticale a banda intera. Ma il segnale è molto più basso, ma perché lo tiro fuori con un segnale di 2, questo qua mi sta segnando 2, vabbè senza tocco abbassato, l'indicatore abbassato, se no sarebbe un segnale di 5, l'ascolto meglio del 440, che il 440 è 8 il segnale. Sì, beh c'è una diversa pulizia di segnale, la ricezione e poi intanto ricevitore è quello che hai un 4 conversioni. Perciò già cambia il sistema audio e non si discute sul 440. 7000 ha una buonissima ricezione. Poi in più c'è l'antenna larga banda, è chiaro che ti si abbassa il segnale perché non ha il segnale della 5 ottavi verticale, però come pulizia lo senti molto più pulito, su questo non si discute. No, no, sono soddisfatto, guarda, veramente contento del ricevitore, no? Ho fatto un grande passaggio, sono veramente contento. Ok, chi è rimasto poi? C'è Sandro, qua c'è. Avanti Sandro. Sandro, se stai parlando ti sento malissimo, cambia l'apparato, se no non riesco a capire quello che stai dicendo. Sì, sì, sentiamo 5. Sentiamo 5, forse c'hai. Ce l'ho rivolto qua verso Sassari. Ma non sento più niente. Ah ok, rieccolo qua. Ma stavo dicendo, stavo lì, stavo trovando il dipolo, probabilmente ce l'ho molto favorevole rispetto alla vostra zona. Con il dipolo mi sembrava la terra della grande, lì Santiago 4-5 qua, ma ti tiravo fuori appena appena, però poco a poco, di mezzo a correre. Sì, sicuramente stava soffrendo un pochino verso quella zona là, dai. Scappa di raggio, no. Così va bene, dai, uso questo e quello è la cosa più giusta. Oh, Antonello, ci sei ancora? Ma Claudio ti arriva molto più forte di me, per capirci come segnare, per capire chi è più favorevole, te o lui, sicuramente lui è molto più forte. Aspetta che mi sono ammutuato adesso subito, provate a parlare assieme. Claudio, prova a parlare, 1, 2, 3, prova radio, attenzione, prova radio, vediamo. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sì, Claudio più forte, i 3 di B. Grazie. io ho detto, tu l'altra volta hai detto, no, forse arrivi più forte, è impossibile, ce l'hai di fronte, cacchio, se non dovesse arrivare più forte di me, deve prendere l'antenna, Claudio. Era coso, troppo sicuro che era molto più forte. E io invece siamo stati sempre attaccati con Antonello vicini, anzi adesso l'antenna è proprio su questo lato, l'altra volta era sul lato strada, invece adesso l'ho messa proprio dall'altra parte, quindi è di fronte a voi l'antenna, perché dall'altra parte non mi piaceva, si vede troppo e esteticamente non mi va, l'antenna ne ho messo la metà rispetto a quelle che c'erano prima. Ci vuole un capitale in chiave per montare tutte le antenne, ho deciso di lasciare solo queste 10, 20, 40, 80 VU e quella di 10 metri basta, se no ci vuole un capitale in antenne, l'ho speso 250 euro in chiavi. Ma come stavi parlando, ti sentivo sotto nel fondo, sotto di Claudio, non ho capito cosa stavi dicendo, forse ti ha sovramodulato lui, ripeti quello che hai detto. Stavo dicendo che io sono basso come antenna, capito? Antenna bassa, e quindi Claudio è spostato da te e fa un 120 più su di te, tutto lì, perché il segnale cambia così. Sì, ma lui è molto più vicino a te che io a te. Ma la distanza è uguale se fai la triangolazione, la distanza è uguale. No, non lo so. Che cosa? Perché tu vado? Prego. Ecco la falchettina, avanti falchettina. Io ho ripreso. E lo sai cos'è, Robè? Io sono il più piccolino. Piccolo e nero, così è falchettina. Ah, pagata, chi c'è ruota? Sì, c'è Sandro Cona, vediamo come arrivi tu a dargliela. Avanti, Sandro, per falchetto. Aspetta, che c'è qualcuno in zona, mi sembra Finangelo che sta cercando di entrare, però c'è la radio bassissima. Sì, lo sento, poco sotto nel fondo, segnale forte, oltre 9 qua. Campa, sì, l'ho sentito, vabbè, c'è Finangelo che sta cercando di entrare, come segnale c'è, ma come radio deve essere che c'ha qualche problema al microfono, perché l'ho sentito cracchiare. Cambia la batteria del microfono, o solleva, o fa qualche cosa, se sei tu. Comunque saluto Alessandro, Roberto, facendo. Ah, mi pare cosa volendo. Ok, a te, vabbè. Adesso già va meglio, sta andando benissimo anche come segnale. Ma proprio come ti sentiamo, ho detto Pirangelo, stiamo leggendo la nuova, se c'è Meclusio, ma già ci sei ancora comunque, dai, ben sentito Pirangelo dopo tanto. Avanti, Falchetto per Pirangelo. Ciao, ben sentito Pirangelo, ben sentito Caparoggio, ma c'è stato un altro sottofuoco, mi chiamava, ma ti chiamo un attimo. Allora Sandro Corona di quello, vai Sandro. Sandro, come senti a me, Sandro? Papà, facciamo 5 da radio di treno, se ne do di più perché ti porto un po' di PRM, però la cosa bella è che ti sento, io una volta non ti sentivo. va bene, riprendi, va. Papà di Roger. Signori, se è possibile, prendo il microfono un attimo, ne approfitto. Pirangelo, mi dispiace che sei entrato tu adesso e sto andando via io, è stato un piacere sentirti, mi avrebbe fatto piacere alla prima occasione, magari... sento un po' più spesso faccio trovarti, che è un po' che non ci si vede neanche. Sai, signori, mi approfitto, 7351 circolari, saluto Pirangelo, Roberto, Antonello, Falchetto, Claudio, forse mi sto dimenticando un po' Benito che però non mi ascolta, mi approfittiamo un altro momento. Correggi da parte mia, passa a te Pirangelo, il microfono, saluto a tutti, Sandro qua nella testa, ciao. C'è qualcosa che non mi guarda. leggermente più basso, ma potrebbe anche andare, però il fatto che noi ti arriviamo 9 mi sembra un po' strano, perché ti arrivavo 9.10 da via Pascoli, qua siamo davanti, mi hai sempre dato 9.20, anche 9.30 a volte, figurati. C'è qualcosa che ci hai inserito che devi disinserire, non lo so, vabbè, lo vediamo con calma, dai, lo vediamo con calma. Avanti Antonio, io vado a cenare, c'è anche Antonio Alessio, ripeto, Benito e Salvatore Rome, quindi fate girare, io mi allontano un attimo la radio e ci sentiamo dopo. Avanti Antonio. KK, buona carica Claudio, con tutto, a dopo se coincide. KK, avanti Salvatore, se sei ancora in ascolto. Vabbè, c'è Benito e Antonio Alessio, Antonio. Lascio a te qua capomaglia, ci sentiamo dopo. Vabbè, vabbè. Avanti Benito. Avanti con voi. Io, ciao, qua ci sentiamo, buona carica, ciao, che roba di moto caricata, tutti e due. Dice allora, sono tu e... prendi almeno che fa. Continua a voi. Allora, tanto, perché sta cantando, non mi sente. Chiedi, non ti sente? Non mi sente, quello di Andrea non mi sente, a me perché sono pazzo. Ah, piraggio, piraggio. Però, stavo controllando una cosa, che mi voleva? Ti stava dicendo Pomponio, se tu l'ascolti a Pomponio. Ben ascoltato con la premiera. Sì, non so se hai lanciato ancora me, ascolti, ma c'è un problema col preampli, qualche cosa che non funziona, ma impara a muoverti, devi arrangiare un po' come puoi. In tutti i modi io mi trovo più o meno vicinante di Sassari, Monte Oro un po' a basso. E non so, rilancio ancora te per girare per gli amici con la buona serata K. Positivo, positivo. Un po' così non lo sento, un po'. Sento con una qua, amico. Anche per Monte Oro è il giro di Sassari, la modulazione non mi sembra comunque, ma lo che non si è stato tempo fuori, però la modulazione di Sassari tutto non lo sei. Appalla, non angelo, avanti sì. Ma veramente, tanto lei, un pochino meglio ti ascoltato, già va bene così, qua stavo dicendo, che era che a Monte Oro e ma no, non mi ricordo nemmeno la più avanti l'amico. No, per non l'attivo è Mister Giovanni e sono in vacanza, appunto il mio PH è della Charlie Hotel, appunto la comunità albetta della Svizzera. E io ascolto quasi tutti e che dimostri avrei bisogno di un controllo di radio perché c'ho qualcosa che non funziona bene sul mio preampli. Ancora a te fa girare K. Guarda, cioè, non riesco, non ho capito niente, negativo, da questa parte, ti lascio dal vedo, però finisci con un riesco, non ci ho capito niente. Allora, così mi ascolti bene, cambio? Affermativo, si basta, però ti ascolto bene. Cioè questo appunto, questo apparecchietto qua è un ZG che viene montato supplementare ma fa un po' il matto. Ti ringrazio che ti muovi che mi ha dato questa informazione, così se per caso ho copio dei colleghi so come regolarmi con la radio. E buona serata, saluti con l'invita per ascoltarti tutti, Antonio, Pierangelo, come chi c'è ancora un altro. Lancio voi fate girare, io faccio QRT perché oggi abbiamo fatto una giornata un po' nera. A te cambio. Grazie a tutti, salutoni circolari, ci sentiamo nel prossimo. A te, a tu. Salutoni a te, quella familiare, buon rientro, buon tutto, avanti con pugno. Sì, capacciamo, no, io non capito se giorni o giorni, comunque salutoni, per esempio, buon guarito e buon tutto alle prossime. Cappalla. In questo momento c'ho 50 watt sotto al culo, no. Ciao. ma è sovramodulato comunque. Cosa? Cosa mi è sovramodulato? Piangelo. Senti, c'è sovramodulato tutti e due, anche la favola della giura. No, io ho salutato, non so se hai sentito, io vado a fare carica. Se cucina più dopo, se no ritiriti super salutato, Pierà. Anche a te, Pomponio. Ciao, ciao a tutti, dai. Ciao a tu. Magari faccio anche io quelle in muro, magari dopo rientro. Ciao a tutti, ciao a te. Magari ci sentiamo nel prossimo, ciao. Ciao, ci sentiamo a Pirangelo. Dunque di pronto a te anche io vado adesso a mangiarmi qualcosa che vado giù a farmi. Mi sta prendendo in due la pezzola, mi si sta prendendo. Si chiama Limitero, o dopo pure Limitero Maria. Ciao. Ciao, buona sera, dopo o domani. Ciao, buona carica a tutti. Ciao. Il segnale. Ah, così. positivo. No, no, lo lascio così. Ci ho messo un goccio d'attacchi, ma no, lascia tutto così, dai. Quando va bene così la radio non ti sta a toccare fuori. No, no, no, no. Se va bene così, lascia di sta, non tocca nulla. Che tutto cappa dell'ogiro, capito? Yes, yes, yes. Domani tu sei libero, va bene, no? Libero, Sempre la mano al primo turno, dalle 6 alle 2, e dalle 17 alle 06. E la cappa si... comunque sei in zona, anche alla fine la possiamo prendere, o no? Sì, possiamo anche prenderla, intanto non ci sono problemi. Non ci sono problemi. Possiamo prenderla. Sono le 7, è buio, capito? È buio, quindi devo prendere la caffeina e tornare indietro poi. Ah, ti viene male allora, così? Male viene. Male viene, ok. Stamattina sono uscito alle 7:30 perché è troppo buio a quell'ora, a uscire presto è buio e tu a quell'ora a mano che non mi aspetti. E adesso a che ora? Adesso le 7:15, capito? 7:15, 7:20, prima di quell'ora non ce la faccio. Perché dove vado io è buio, tocca andare una mira e cazzo non vedo niente. C'è la luce in ingresso, però dove sono i contattori, sino a quando arriva un po' di luce ci sono le finestre, non ci vado una sega io. Ma guarda, hai fatto un passaggio che ti sei abbassato di parecchio, poi ti sei alzato, poi ti sei tornato a abbassare. Vedi un po' caso? Mi sono abbassato, mi sono alzato e mi sono abbassato. Adesso sei pulito come la rosa, però stavi parlando prima normale, con la voce normale come ti sento sempre, poi sei abbassata di tonalità di voce, sei tornata a sollevare la voce normale e poi sei tornata a abbassare quando tu hai staccato il mic. Adesso sei uscito pulito. E perché mi sono girato? Allora, qui sono davanti al microfono. Se mi giro così, la tonalità della voce cambia. Se mi giro così, la tonalità della voce cambia. Se invece rimango così, va bene. Non è mai fatto spaventare. È vero, si conferma. Accende piccoli. Io c'ho tutto sotto controllo qua, Antonio. No, perché mi sono girato per lo strumento. Poi mi sono rigirato per il televisore. E tanto ho sempre parlato, è chiaro che cambia la tonalità della voce perché non sei puntato sul microfono, anche se sono a 70-80 cm dalla radio, però perché ci sto lavorando, sono anche di fianco, infatti il microfono è girato all'altra parte, infatti ce l'ho aperta la radio e sto guardando proprio la parte ricevente e guardando il tuo segnale. Perché poc'anzi quando crescevo con questa, forse perché era fredda, non avevo segnale che si abbassava e saliva. Adesso ho staccato la spinetta dello strumento, questo c'è lo strumento a spinetta separato. E ho sfruttato un po' il prodotto, adesso vedo che sta andando bene. No, allora è stato quel momento dei due passaggi che tu ti sei girato a guardare lo strumento, lo so, la stai facendo, ti sei abbassato, ma non abbassato, ha cambiato tonalità, ecco. Poi ti sei rimesso magari di fronte al microfono e è tornato tutto rose e fiori, gappa gappa. normale. Questi microfoni sono così, sono sui puntato, ma questi microfoni. oddio, tutti i microfoni sono così. Se non ci parli diretto e ti giri, se io mi giro a questa parte a vedere il televisore, è chiaro che mi senti, ma la tonalità di voce rispetto a questa cambia, no? E se lo faccio io per la prova, cambia, guarda, mi giro dall'altra parte, ma cambia la tonalità di voce. Quando non c'è un bravo? No, sembra la stessa. Eia. Eppure sono girato dall'altra parte, c'ho cioè, il microfono dietro la testa. Non sapevo, io pensavo che cambiassero un po' tutti, invece sono proprio questi che sono direzionali, hanno proprio la timbrica così. E vabbè, no, comunque tu vai bene, aspetta che l'ho visto, ecco qua, che era la ghiera staccata, se non fa bene massa. Cappa di Royal, di lusso, di lusso, che sempre voglio ascoltare con questo impiasto. Allora lo facciamo quel lavoro di cambiare il coso al microfono. Rodi? Ma tu, questo dipende da te. Io tutta questa settimana sono praticamente il pomeriggio a casa. Sono a casa perché ho la reperibilità, quindi quando esco dal lavoro resto a casa, capito? Tutta questa settimana io sono reperibile. Faccio sempre dalle 6 alle 1 e mezza, diciamo, e poi entro in reperibilità dalle 17 alle 05 del mattino, capito? No, oh, capito. Mi sa che Benito mi ha lasciato una commissione, mi sa che scendo domani sera e me la ritiro e mi sa che se ce la faccio non ti prometto niente, ma domani sera ci faccio un saltino così vediamo di cambiare quelle condizioni al mobico, dai, quel microfono che mi è stato concesso a te, dai. Certo, ma non dobbiamo fare solo quello, dobbiamo anche attaccare quel computer, avviso anche a Luca, così le diamo una controllata, vediamo com'è la situazione, che cosa manca, cosa non manca, se si può inserire qualche altra cosa, insomma, fare un po' di metterti in condizione di iniziare a viaggiare anche col computer, se no è poco mobili. Infatti voglio vedere anche quello. Adesso io domani sera la descendo, mi ritiro quella commissione. E poi adesso lo so che ora potrei essere su a casa tua. Magari faccio una cosa, riservo qua a casa. Se tu sei in radio, mi dà la conferma e io ci faccio il saltino. Poi riguardo la cosa bisogna che scendi con la vettura, sali lassù, capito? Io momentaneamente vettura non ho, capito? Non è stato il problema, tu ritira la roba che devi ritirare da Benito e poi ci organizziamo, non è un problema quello, capito? Non è nessun problema, va bene così. Ritiro con la commissione, poi te la conferma che c'è tutto, si carica tutto e si prova, e mi sa che poi facciamo tutto insieme con questa specie di apparato qua, se riesce a abbinare qualche microfono, cavolo. Se abbiniamo un microfono, non è problema, Parisci. Usi quello F12, quello che ho tirato io, e se no facciamo una connessione all'altro, che è un problema. Tu i suoi vari, chi sarà il regalino? Così lo proviamo sotto testa e vediamo cosa ci dice, quali sono le connessioni esatte, e lo facciamo funzionare bene. Sì, frate, lo porto, guardo tutto. Tutto quello che ho, porto. Il microfono mi ha dato tu, quella specie di adattatore, così si chiamava, adesso si dice l'adattatore, l'altro microfono, quel Intec M50, 500, arriviamo un po', le facciamo 0, 0, tutta la moneta, non è che ne vuole che sia problemi. Ma quello è 600, così si chiama, ma cos'è la pago? Sì, è un intake M500, da tavolo, tavolo, tavolo, sì, da tavolo. Quello che hai detto è manca la spugnetta. No, non è manca la spugnetta, no. È stato fatto un po' un impiantino così, ma non è stato fatto. Poi ho cambiato la capsula, ho messo quella del citofono, ma mi pare non scende da dove. Se vuoi te lo provo me e lo senti, perché la potenza funziona, però è tutto Appunto, te lo direi che io. Ma fai mettere una capsula del citofono che abbassa l'impedenza. Scusa, le capsule che si adeguano ai microfoni rotti sono quelle del telefono, non il citofono. Quello è il telefono che ha la temperanza, ma non quella del citofono, quello del citofono va bene. Ah, scusami, Antonio, scusa, mi sono confuso io, quello del telefono, mannaggia, cioè, per correre, dove entra lo citofono, ma... Ui, a me non mi ha voluto, no, hai ragione tu. Quello del telefono, quello del telefono, che sono capsule piccoline, già riconosci quali sono, eh? Quello del telefono deve funzionare bene. Perché la temperanza quindi deve funzionare bene, a meno che quel microfono non abbia qualcosa sul circuito di preamplificazione che chiude qualcosa, o c'è qualche transistore di alimentazione in perdita, qualche resistenza, qualcosa bisogna controllare un testo, tu. E quindi andando in perdita non ti do la preamplificazione che ti deve dare, bisogna controllarlo, perché te me l'hai già fatto sentire, è molto bassa come modulazione, non sembra neanche un microfono preamplificato. Ah, è vero, aspetta, se non l'ho fatto sentire tu mi hai detto che non andava bene, bisogna controllare un po' tutto, eh. È vero, ho fatto già i controlli, hai ragione, vabbè, non è che mi interessa più di tanto, però è giusto lasciarlo così, se si poteva fare qualcosa, se no là per Napoli mettiamo le pedurici. E si rapide a Napoli, non so chi vi ha punito. Con quello fiducia ci funziona molto bene, anche perché lì c'è una capsula di un microfono preamplificato da tavolo, di quelle capsule ceramiche, hai capito? E va molto bene quello. È un F12 modificato, però va bene, è dell'Alan, non so se F12 o F13, boh, 14, non lo ricordo. Ce l'hai lì, comunque funziona bene il microfono, lì c'è solo da cambiare la connessione, invertire il rosso col nero e basta, e proviamo subito quello, se quello lì va bene col mobico usi quello, e intanto nel frattempo ci controlliamo l'altro che è da sistemare, vediamo se c'è qualche resistenza, qualcosa da cambiare sul circuito, si cambia, ciccia, non è un problema quello. No, infatti F13 Alan, da c'è scritto, da di non da. Di quello di non da, chi se va di non da. Sì, vediamo di cambiare connessione a quello e lo mettiamo qua a corso. A questo mobile, sempre di anni, se no abili a Napoli. Bisogna dire abili a Napoli, bisogna farlo funzionare. Quello è la signora radio, bisogna farla funzionare. In caso contrario, c'è il tale più 3 e si attacca il tale più 3, qual è il problema? Per i problemi non vi risolvo. Non c'è nessun problema. Capito? Quello deve funzionare perché una radio deve funzionare. Il microfoni da palmo ne ho tanti, da tavolo li avevo tutti dati, però già me ne sono rimasti. Capito? Non è un problema quello. Ciao, MP4, nuovo dentro la scatola, ti voto le connessioni e via, e si andendi e succhialiamo. Allora, ancora con strutturali. Guardate quella pipetta. E qua l'antenna. E qua manca la pipa. Cioè la piazziamo. Cazzo, dove stai sempre lavorando tu? Tu stai sempre lavorando, sei impegnatissimo. Quindi bisogna fare anche quello. Queste positive bisogna fare. Bisogna farle tu, perché altrimenti poi rimango indietro. Ma chissà, non è una cosa urgente di a pipetta e pipettina. Allora dovevo funzionare su Mobilco. Tanto io i microfoni a 4 ne ho già pronti. Voi su 6-7 microfoni pare io. No, uno non va bene, mi pare il tram. Ma a parte il fatto che ce l'ho con il Mobico, quindi qualche microfono è rimasto con le connessioni del Mobico. Sono tutti dentro il cassetto, quelli da Palmo. Quello lì che ti va da terra del presente, ecco perché non ce l'ha invertito il filo. Ma quello del Mobico c'è sicuramente. C'è perché ce l'ho. Quindi proviamo quello lì, in cuffia, e vediamo come esce. Adesso ho provato il centrale più 3, che c'è le connessioni a 4 lo stesso, e non mi ricordo se era di quello, del presidente, di tutte le radio, vero? Di baracchini là. C'è la cattiva 1, va a far andare, non ti preoccupare. Va bene, e se non ferma, va bene così, non è? E a portarle poi messaggi di una gira, ti portano a parlare domani, se sei libero, domani pomeriggio. Pronto, sono a casa io, non vado da nessuna parte. Io esco la mattina, dopo parlo, rientro, e quando esci tu da lavoro, io sono a casa. Sono qui a casa, tranquillo e sereno, perché a meno che non ci siano dei problemi e devo uscire nel pomeriggio, ma speriamo di no, cazzo, domani è lunedì. Quindi, comunque, al limite ci sentiamo, ti chiamo io dopo le 5 e mi dici, e ti dico che sono a casa, puoi passare, non farti salire a vuoto. Beh, infatti, positivo, magari fare una bassa, mi dice guarda, è tutto qui, sono a casa, capo, io prendo il tutto e dico su. Ehi, ehi, Anto. Tanto tu ritirati quella roba da coso, da Benito. Qui ci abbiamo anche quella roba lì. E siamo a cavallo, capito? Sempre bene sta andando, sì. Di lusso. No, io devo fare solo un salto giù a Santa Maria di Pisa. Se c'è la nipote, tanto c'ha tutto in macchina, avrà tutto già tutto imbustato in macchina, non devo fare altro che prendo la macchina, se c'è la nipote, sperando sempre non sia a passeggio, ritiro tutto e ti dico gradisco tutto e si conferma così. Io mi devo solo augurare che lì non esca domani pomeriggio dopo le 5, capito? Perché se esce è un problema. E allora devo tentare, devo andare a tentativi durante la settimana a vedere un po'. Comunque, o per una cosa o per l'altra, io domani sera vado, se c'è ne ritiro tutto e ti dico che ho ritirato tutto. Caso contrario, salgo così, vediamo un po' se possiamo mettere a posto questo compito, dai. E così possiamo una cosa o l'altra. E si conferma. Va bene. Positivo. Va bene. Ma di lusso la razza ti aspetta. E di lusso? Picchi positivi? Però ti volevo dire una cosa. Questo smitter qua, no? Ascoltami bene. Arriva fino a 9.30, no? Non so se sia 9.30 o 9.60, però 9.60 vuol dire essere a fondo scala dello smitter e della tacchetta rossa, così mi confermi, Claudio. Di quello che ti hanno detto adesso sì. E invece mi arriva a metà tacchetta rossa, a metà però a fondo scala non ci arriva, come mai? No, non è un problema, c'è altrimenti. magari leggermente spostato, proprio un pelino. Mentre se vedi adesso io faccio così, no? Aspetta che mi metto la luce, un attimino lascio tutto acceso. Se io muovo questo tastino qua, vedi, ma si blocca sempre lì. Allora esco qua, ragazzi. Ecco. Così la radio è perfetta, però se mando avanti il pomellino, il terzo pomellino, rimane sempre fermo lì lo smitter. Non sale né passa. Scusa un attimo, che pomellino è quello? Perché ho notato che quando lo mandi al Massimo Saturi. Come mai? Ma non è un... è una roba importante il suo coso. Ma l'hai modificato, boh. No, penso che l'abbiamo modificato. Il terzo pomellino non riesco a leggerlo. S-A-L, blu, S-A-L. Mannaggia. S-A-L c'è scritto. Canalla, ma forse canalla, canal, cal, c, cal, cosa vuol dire? Calcolo la calibrazione. Ma cosa c'è tu, lei o i salari, non me lo ricordo. Non me lo ricordo. Ma cosa c'è tu, anche il rosmetro incorporato? Rosmetro, sarebbe? Noi c'è il cal, le cal c'è nello radio che hanno... il rosmetro incorporato. Scusa, ne vuoi dire la calibrazione dello smitter se non c'hai, ad esempio sul SEAS l'SSB 50 e anche il Superstar 7000 c'hanno la calibrazione CAL, eccolo lì, CAL. Ma CAL vuol dire calibrazione dello smitter per fare il fondo scala e poi tiri su l'altro pomellino dove c'è scritto SWR e controlli la stazionaria dalla radio, dallo smitter. Ma così il tuo è. È proprio vero. Io ho un tasto che posso regolarmi le stazionarie. Come le puoi regolare? Le puoi misurare, non regolare. Regolare si regola solo con la corda d'antenna. Quello c'ha lo strumento, il rosmetro incorporato. Quindi tu cosa devi fare? Devi portare in posizione CAL. C'è il potenziometro piccolino, regola lo smitter sulla striscia rossa a fondo scala e poi tocca il tastino dove c'è scritto stazionario, praticamente SWR, ok, e vedi quante stazionarie c'hai e poi rimetti la posizione del CAL in segnale continuo, basta. Forse per quello ce l'hai regolato male tu, quindi ce l'ha già la regolazione con la radio. Sì, infatti questo tastino che c'è scritto CAL sotto, proprio sotto, fa tre scatti, uno al centro e giù, capito? Ecco, al centro ti muove lo smitter normale, giusto? No, su mi muove lo smitter normale, al centro vediamo un po', adesso lo tocco. Sulla striscia rossa, sempre con la portante calcata, metti al centro e guardi quante stazionarie hai, senza parlare. Guarda quante stazioni hai, c'è qualcosa di nuovo, però quella monopolina non mi convince molto a me, Ti guardi la modulazione. Ecco, adesso lo metto al centro. Stazionarie 1. 1. Le metto la posizione calda come ce l'avevi prima. Ecco. Adesso come ce l'ho prima. E fate scendere tutto a fondo scala lo smitter. Le mettilo su in posizione diretta. Adesso sono in posizione diretta, però lo smettere non sale più di metà. No, il pomellino, quello che abbiamo regolato lo smettere, mettitelo com'era. E com'era? No, ma stai strappando, non è com'era. Ah, ecco, sto strappando, ecco, così vedi, lo sto strappando. Ecco, così deve andare. Però c'è qualcosa che mi quadra lì. Quando sale porta la coppa alla radio, che la voglio mettere sotto lo strumento mio. Ehi, le porto tutte e due, perché anche a me non mi convince questa radio. Non vorrei che l'abbiano manomessa, ma mi aveva garantito che non è stata mai toccata questa radio. Oh, a parole si possono dire tante cose. A parole si possono dire tante cose, infatti solo lo strumento ti dice la verità. Capito? Solo lo strumento. Solo lo strumento ti dice la verità, capito tu? No, quello vorrei che quel potenziometro stando molto fermo sia un pochino, perché quando lo tocchi fischia, ti varia la modulazione e non vale interferire con qualche altro, all'interno con qualche altra cosa, ma non abbiamo problemi, diamo una spruzzatina di medicina. No, aspetta, non è che perché c'è l'altro mobile acceso, no? E fischiamo per quello. Cazzo, tu se me lo dici tu, allora è per quello che fischia. Adesso aspetto tutto. Aspetta, riproviamo, dai. Allora, guarda adesso, a fischia. No. Diciamo la parola, adesso scende a polo scala proprio, con la calda. Metti il tastino per misurare la stazione, quindi al centro. K. Adesso al centro. A me cosa dice, cosa segna lo smitter? Cioè tre scale dunque lo smitter, giusto? Cioè la ricezione praticamente da 1 a 9 più 30 e poi c'è il calo e la fala SWR. Eia. Ecco, nella scala quando tu metti al centro il tastino e ti misura le stazionali, cosa ti segna nella scala SWR? Quanto ti segna? 1, 1 e 1? 1 e 1. Perfetto, la mia stazionale è a posto. Rimettitelo in posizione diretta, tastino tutto in su. E la calibrazione lasciagliela così. Ecco, adesso il tastino tutto in su. Trasmette fino alla mia riva. Allora, lo smitter arriva modulando quasi a toccare la tacchetta rossa. Se fischia va oltre la tacchetta rossa. E così deve essere. Lasciala così la calibrazione. Così deve lavorare con la radio. Non con la calibrazione chiusa. Se no lo smitter non ti sale. Ah, ecco. No, adesso modulando lo smitter, cioè se sto zitto, è ferma 8. Se modulo sale 9, 10, 9, 20. Perfetto, a posto. Così deve lavorare. Così deve lavorare. No, la porta è fissa. Non deve mai andare a fondo scala. Mai deve andare a fondo scala. Deve lavorare sempre tra gli 8 e il 9. Tutte le radio, anche questa lavora così. No, poi piccola modulazione è un'altra cosa. Quella è un'altra cuba. Quello è, deve muoversi per forza, se non si muove vuol dire non si scende. Quindi lascialo così e si è a posto, non c'è niente, quello è a posto. Ah, positivo. E infatti questa sono 7, la quantità tenuta è 7. Quando parlo sale 9, 10, capito? È giusto così. No, siccome sentivo il fischio, ma non sapevo che avevi l'altra radio accesa, capito? Per quello mi sono preoccupato. Adesso va bene. No, c'è acceso perché mi stavo ascoltando in cuffie, no? Ogni tanto lo accendo e lo ascolto in cuffie. No, niente, no, sì, sì, crea problemi quando ci sono, perché uno sopra l'altro poi, tra parentesi, le rare, capito? Cioè quello che si sente. Ai, ai, Antonio, anche quello da eliminare, una sopra l'altra, dai, non va bene. Non va bene, ti fa rientro di RF, se tu la sposti, vedrai quanto va molto meglio. Mai le radio una sopra l'altro, perché già c'è RF quando tu stai parlando, in più c'hai l'altra sopra, se non c'è gli isolatori sotto, i gommini o qualcosa, è da mettere, non va bene, non va bene. Beh, ma si aspetta, non fa niente, non devo proprio togliere tutto la sopra. Oh, si aspetta che accesa, è sempre una cosa che non va bene. Di una sopra l'altra o deve essere isolata, quindi sotto le diventa dei filtrini qualcosa che isoli la lamiera da una all'altra, sempre, altrimenti va spostata, non conviene mai metterle una sopra l'altra così al radio, sempre a fianco per evitare appunto il rientro di RF in cuffia o anche quando stai parlando, è sempre un problema. Se però la isoli, quindi non le fai toccare ferro con ferro, le metti nei filtrini da fare in gomma, se non ce li hai, te li do io uso sempre quelli per non graffiarsi e per fare da isolatore di cassa, è meglio farlo, capito? Bene, tu hai ragione, e si possono anche rovinare gli apparati così, è vero, ma toccando ferro con ferro poi ti crea un sacco di problemi, è vero? Sempre meglio essere isolate le casse per qualsiasi evenienza, capito? Vabbè, queste c'hanno l'isolatore loro, ma se dovessi metterli una sopra l'altro, se stai parlando e tocchi una ti dà la scossa, è normale. Infatti lavorano tutti con le masse a terra. Ma stiamo già parlando di radio che hanno un'alimentazione diversa, hanno un circuito diverso di alimentazione, anche il microfono è alimentato, quindi se fa batteria, lavora col processore direttamente della radio. Però i baracchini è sempre meglio metterli uno sopra l'altro, ma isolati. Cassa con cassa deve essere sempre isolato. E così farò, resta con tutto, nei benefici se crea problemi, non vorrei danneggiarsi l'apparato, il discorso di mettere la mira con la mira, nei benefici sì, e così entra corrente, non è tanto bello metterli a contatto uno con l'altro, separandoli magari tutto di un'altra cosa. Dici, è sempre meglio. È sempre meglio separarli a tu, è sempre meglio darle ogni cosa vuole fatta bene, ma poi quando vieni qua te lo faccio vedere, ti do qui una di quelle bustine di filtrini e te le metti, almeno su quello che sta sopra, ne metti 4 in modo che appoggi bene sull'altra radio, monta la graffia e rimane isolata, capito? Perché ci sono questi affarini in gomma, li usiamo un po' tutti, non è che li ho inventati io, li usiamo un po' tutti, ho dei piedini per sollevare la radio, per rimanere la autoparlante sollevato e quindi avere una ricezione migliore, perché se lo chiudi rimane intasato e la ricezione non è più buona come prima, capito? O se non ce l'hai ti do una colonnina esterna io. Ma questa c'è le stampe che attacchi all'abitacolo, diciamo, infatti io ho la stampa girata e appoggiata verso il basso in modo che la colonnina si possa ascoltare, capito? Ma non hai colonnina, ma tocca la testa, non ne hai tu? No, non ne ho. Io mettermi quando ho entrato io quella della Intec, funziona bene quello lì. C'è la sua staffettina lo stesso, vanno bene, c'è quella della Inter, c'è quella della Fayette, c'è quella della Gianni, ho dei colonnine appunto parlante esterno. Si sente anche meglio la ricezione, perché è da autom, va molto meglio, più forte la modulazione in ricezione. Ma la colonnina esterna senti anche, diciamo, che sta modulando, così, il QRM, questa roba qua la senti o no? O senti solo quando stai parlando? Attacco dietro, dove tu inserisci le cuffie? Io ho l'Atlanti per inserire le cuffie, la colonnina esterna è dietro, ma queste sono radio di quelle grandi. Al baracchino non c'è l'attacco dietro per attaccare la cuffia, dove l'attacchi tu la cuffia davanti? L'attacco dietro, ma ce ne sono due attacchi, Claudio. È meglio ancora, uno per la cuffia quindi, e l'altro per la colonnina esterna. La colonnina esterna devo dire che elimini l'autoparlante del baracchino e ricevi con quella esterna, quindi più amplificata. Ho capito, ma sono due cose diverse allora quelle. Tutti i baracchini ce l'hanno, quelli di nuova generazione come quello lì c'hanno l'attacco per le cuffie e l'attacco per la colonnina esterna. Diciamo, i vecchi avevano un attacco solo, faceva sia la colonnina esterna che dall'autoparlante esterno. Ciao, ce l'ho una di quelle, avevo così l'attacchi e va molto meglio. E poi ti dovevo smetterò quello piccolino della ZG con lo spezzone e così ti controlli watt stazionari e c'hai tutto sotto controllo esternamente, capito? Già ne ho roba io, ma non mi ricordo la mocca, tanto perché mi dimentico. Vabbè, già te lo ricordo io là. Ma tipo parlascope questa colonnina o cos'è? O è una colonnina solo esterna? Ma sto parlando esterna, tu canto la radio, ma c'è le cose, ma le cose pure i colonnini, la radio che canta, la stessa cosa è me. Ma sto parlando esterna per il baracchino. Ah, cappa. Ma io che parlascope cosa vuol dire? Parlascope è quello che ti senti la tua voce nella radio, dalla colonnina della radio. Ma è che una rottura di palle. Si può eliminare in certi, in alcuni non si può eliminare. Nella rottura di palle, perché quando stai parlando senti questa voce. Io l'avevo fatto il parlascolta nell'anno 48, ma poi l'avevo tolto perché era una rottura di palle. Perché in effetti quando tu parli ti senti la colonnina, così è. Cazzo, senti la tua voce nella colonnina e fai un casino niente, disturbi, perlomeno qua disturbavo io. Allora lascio tutto così da. Cioè, perché colonnina e va bene. No, è che parla ascolta, infatti qui un altro da scatola non va bene, no? La colonnina esterna va bene. Ma sto parlando anche di un'altra cosa, come lo regoli, abbassi il volume e senti di meno, se levi il volume e senti di più, che sia un'altra cosa. Ma la scopa ce l'hai all'interno della radio, quindi non so se si può eliminare, può venire anche da Luigi, ma di convivere la luce. Ti metti la colonnina esterna, te la do io, e così elimini quella del baracchino praticamente. Una volta che tu inserisci il cerchio dietro, come metti le cuffie, no? A fianco nell'altro foro che c'è, inserisci il cerchio della colonnina esterna e ti elimina quella del baracchino, e quindi la ricezione ce l'hai più chiara, più alta. Ah, ecco. Sì, beh, in effetti sì, perché io ho lottato e quando ascolto con le cuffie, io ho un paio di cuffie comprate dai cinesi, da chi sia, del cuio, lo inserisco e ti sento in cuffia, ecco, e invece la colonnina esterna elimina la colonnina del baracchino, giustamente, e lo ascolti nella colonnina esterna. Esatto, siccome c'è più impedenza, è più grande l'autoparlante esterno rispetto a quello che mettono all'interno nei baracchini, la ricezione è superiore, ascolti meglio la voce e tutto, no? Positivo. Anda bene, Mina. No, allora saliamo solo il mobico, dai. E così vediamo un po' di allenare qualche microfonetto anche quello, dai. No, questo. telefono va benissimo, lo toccavi va benissimo. Io ho sentito il fischio e pensavo che era quel potenziometro che hai toccato del carro, che era mezzo sporco, invece c'avevi l'altra radio accesa. No, no, lascia tutto così, c'è vabbè. Continuo con la truppa, e usci nel radio, usci. Molto bella, mi piace anche quella di Luca. Molto bella quella di Luca, non me la ricordavo quella del Typhoon. Non me la ricordavo. Ma c'è anche l'MB4 che mi piace moltissimo col Galaxy. Andava molto bene, perlomeno quella che sentivo mi piaceva moltissimo. Io quando una cosa mi piace dico la verità, è bella e basta. Però ognuno c'ha i suoi gusti. Però ce n'è di belle radio, se le fanno usare qua a Sassari, le sentivo molto belle con i baracchini. Poi è nata stamani all'Eco, quindi tutti hanno cambiato, ma già ce n'è di radio belle. L'MB4 ad esempio si adeguano a tanti baracchini. È un microfono che costa poco, però qualità prezzo è un buon microfono. Sì, beh, in effetti sono dei bei microfoni, capito. Lo so. Però io a questo avevo fatto già te l'avevo detto, in verticale avevo fatto questo microfono. Ho cambiato la suddetta capsula e niente. Quella che c'era prima, ma neanche cannonate lui. Ma lì tu cosa hai messo? Ti hai controllato se quella capsula del telefono ha l'impedenza giusta per poter andare con quelle M500, cioè tante cose, uno biglia una capsula così e la inserisce. Bisogna anche avere l'impedenza che ha quel microfono, se ha 600 ohm, se ha 500 ohm, se ha 400 ohm, bisogna vedere quanto è. Se quella capsula tu l'hai messo ha un'impedenza inferiore a quella, non va bene come modulazione, non può mai andare bene perché è un microfono preamplificato e quindi chi lavora le capsule che lavora sui microfoni preamplificati devono avere quell'impedenza giusta per far sì che il circuito di preamplificazione sia adeguato, altrimenti ti chiude, anziché amplificare chiude. Beh, in effetti hai ragione, ma quello non l'ho proprio guardato. Ho preso e ho saldato con la capsula lì, ma senza sapere, hai ragione anche tu, senza sapere se si potesse abbinare o meno, ecco, quello che è vero. E da vedere, dai, te lo sai, così si vede con la calma, capito? E niente, e può essere pure sia anche così, guarda, no, può essere così. L'originale di quella M500 non ce l'hai, perché l'hai cambiata? Perché ti hanno detto che si poteva fare o l'hai fatto tu di testa tua? No, proprio non riuscivo niente con quella capsula, nulla, butto, completamente butto. Allora era bruciata. Ho capito. Però quella che gli hai messo dobbiamo prima verificare che impedenza ha quella capsula che gli hai messo, perché non tutte le capsule dei telefoni hanno un'impedenza superiore a 500 ohm. Se quella capsula tu l'hai messo inferiore ai 500 ohm non potrà mai andare più di quello che sta andando. Capito? Quindi dobbiamo prima verificare quello e poi vedere se c'è qualche problema sul microfono. Può darsi pure che sia come ti sto dicendo io, che non farà bene con la capsula. Altrimenti se la capsula è adeguata in ohm, vuol dire che c'è qualche transistor, qualche resistenza del circuito di alimentazione inferita e quindi la preamplificazione non sale più di quello. Se si vede, andrà a controllare qua. Capito, io non ci metto le mani per intanto, io se cambiare, saltarmi una cosina così, ci metto le mani, ma oltre non guardo perché non è il mio campo, Cali, non è il mio campo, e per guardarlo preferisco lasciare tutto a me. Lo so, ma neanche io mi avventuro più di tanto, Su questa radio ce l'ho aperta, ho spostato tutti, ho staccato tutto a spinette. Solo per mettere le mani, li faccio io. Vedi, c'è la ventola in funzione, manco si sente, ed è aperto. Ed è aperto. Quello che lo smitter è sempre stato. sono sempre più che mai. Questo è tutto a spinette, tutto a spinette, tutto a relè e a cose allucinanti. Però sono un granaio, lo apro, tocco, faccio qualche regolazione, me l'ho fatto adesso mentre tu parlavi, mi sono regolato lo Smith un pelino a 50, perché tu c'hai 5 di più meno di in più di a 55, 5 dB in più di Roberto, e quindi ti ho leggermente regolato con questo, così ce li ho tutti uguali regolate, e devi stare attento, sai qual è, e lo regoli, ma ti ripeto, non è che anch'io mi avventuro più di tanto, se una cosa che so fare conosco va bene, altrimenti preferisco sempre portarla a chi ha gli strumenti adatti per poter fare le cose, non dare a dialogarci a vite, a questo, ah non è questo, allora tocco questo, ah non è questo, allora tocco quello, alla fine hai mosso tutto e hai fatto un casino di Gesù Cristo. Io comprai una radio a Lucca Flipper, un 140, bellissimo, nuovo, per carità, senza nessun problema, ma Dio mio, com'era all'interno, era una cosa allucinante, allucinante, ecco perché lui non riusciva a togliere mai piedi. E loro mi ha aperto la mia e mi ha fatto tutte le regolazioni uguali, precise, identiche, ma c'erano dei trimmer completamente al rovescio, completamente al rovescio. Me la sono fatta pian pianino, occhiali negli occhi, guardando, facendo, me la sono fatta. Ed è quella che stavo usando stasera. Ma adesso va bene. Prima non si capiva qual era la ricezione e qual era la trasmissione. Ah, l'avevano manomessa allora quell'apparato lì, l'avevano manomessa. Sì, hanno provato a farsi regolazioni per i fatti suoi e come ti stavo dicendo, questo è, no, non è questo, tocco questo non è, tocco quello, e alla fine hanno spostato tutti i trimmer di bassa frequenza, di alta frequenza, quello in sintonia continua, non è che tutto più un trimmerino non succede niente, ma cazzo. Infatti in FM era tutta spostata, in AM era una goccia di chinopodia intesa, né in ricezione né in trasmissione, in banda laterale idem con le patate, perché ogni suo funzionamento va regolato come deve essere, ci sono dei parametri, quindi o al computer ho tirato fuori la cosa, a parte il fatto che poi me l'ha tutto allineato bene bene Massimiliano Archimede. Perché lui ci vuole lo strumento, ci vuole l'oscillatore in frequenza, per vedere se le frequenze oscillano bene, se tutti i relay sono a posto, se tutto va bene. Ma io nel frattempo mi avevo fatto tutti gli allineamenti che si fanno così, capito? Chiaramente sapendo quali sono, schema in mano, però poi gli allineamenti di precisione, lì ci vuole l'oscillatore in frequenza. Se non c'è l'oscillatore, no, vero, vai, quella è tutta roba da laboratorio che costa 6-7.000 euro, quindi non è che ti puoi pigliare uno strumento per fargli ti dare a dubbio. L'ho portato a lui e me lo sono fatto fare. Quello è quello. Cappanoggio, è normale, tutte le cose ci vuole gli strumenti adatti, non è che metti lì a con cassavite, tocco questo, tocco quell'altro, va bene. Ogni cosa ci vuole lo strumento suo e basta, perché altri, cioè, rischi di rovinare tutto, ecco. No, io sono del parere, non ci metto mani se non è un qualcosa che so fare, se no lascio tutto com'è, al limite si porta a chi è di dovere che lo faccia e basta, però a metterci le mani per... No, non me la metto, a parte non so neanche da che parte del mondo si può uscire. No, mi una volta la mia vetta l'avevo aperto per vedere dentro, stavo guardando e si era staccato il filo della colonnina. Basta, che ho messo un punto di saldatura alla colonnina e boh, richiuso con picchi, boh, e non è stato mai avviso. Ma anche io sono così, questo non è di filo a saldare. Questa c'è la spinetta, si piace aperto. Se io stacco la colonnina esterna non ho ricezione, non ti sento, non ho voce, non ho audio, capito? E invece ho inserito il jack della colonna esterna sua e ti sento, perché il coperchio c'ha la colonnina incorporata con la spinettina che va inserita nel circuito di audio, c'ha la scheda audio, questo va inserita nel circuito audio e ti sento. Però siccome c'è da coperchio, lo sto tenendo sotto controllo, sto controllando l'orologio, ogni minuto scatta la ventola, è precisissima, in gradi sono, c'ho anche il termometro sopra, i gradi sono 86, ci butti la mano, 86 gradi scatta la ventola, è perfetto, è un po' di ghiaccio, è poco il carico. Va bene. Sì. Tutto a calma. E va, devo scaldare così quella radio. Giusta persona va a accendersi la ventola. Deve scaldare per forza così. E per guardare con la temperatura sua. C'è la retrostante e parte. Quando le dà l'impulso della gradazione deve partire la ventola. Io ce l'ho aperta, quindi immaginate tu, a coperchio chiuso scalda ancora di più, però all'interno c'è un dissipatore di 140, 440 dissipatore, 430 c'è un esterno, quindi c'è un interno, e a fianco al dissipatore, quindi al finale grande, c'è la ventola del raffreddamento, devono partire da sole. Infatti questa parte perfettamente, tutta pulita, manco gli intenti. Cioè io mi devo mettere vicino per sentirla. Ok, perfetto, anche questa è a posto, la ruota, la volta sera, qual è il vostro difetto? Addirittura la via, la buia, in pausa cena, ti pongo a posto io, sotto coperchio. E me la sono fatta subito immediatamente, adesso va benissimo, il tuo segnale è sempre stabile. Gappa, quindi dovrebbe in poche parole in automatico accendersi la ventola, quando arriva la temperatura attacca e si accende, no? E sì, c'è un termostato, come lo scaldabagno. Ah, ecco, non ho capito. Gappa non ce l'ho, sì, sono buone. Guarda così, sono buone, e allora, vedi, c'è cose che se uno lo sa, con la bocca, le qualcosa che inizia a difettare, a fare, a dire, è diventato un problema. Come la bocca da entrare di meno, ci si può mangiare dentro, come si vuol dire, no? È perfetto questo, non c'è un filo in polvere, niente. Questa c'è la colatura automatico anche. Lavora esternamente, no? Ma attenzione, a queste radio vanno fatte ogni tanto, adesso mi sono messo in testa pian piano di farle tutte, mi manca ancora quella della Icom, ma quella lo stesso, a giorni me la metto sotto, la facciamo. E tieni conto che sono state praticamente più di un mese staccate le radio, che stavo facendo lavori. Avevo una accesa, ma così, a un angolo con l'alimentatore, giusto per ascoltare. Più di un mese di più staccate, erano tutte per terra, tutte coperte, però, sai, la polvere è entrata, erano ferme, non stavo più modulando per mille motivi. E quindi chiaramente un po' di polvere oggi, un po' di polvere domani, l'ossido, le pattine che si formano soprattutto nei circuiti di alimentazione, è chiaro che poi quando li accendi qualche problemino te lo creano, anzi io sto sempre attento ai rumorini, però 430 l'ho sistemato, ti ricordi il primo giorno l'ho acceso, faceva schifo, adesso è quasi, fa meglio del 440 che è quella che ho tenuto sempre più in considerazione. Questo è il 140 e ce l'ho già più di un'ora acceso, non ha fatto nessun difetto, infatti sto facendo passaggi lunghi per quello, i segnali sono tutti a posto, ti ascolto, una cannonata, benissimo. Tu mi hai detto che mi ascolti bene, perciò anche questo dovrebbe essere a posto. Quindi tre li ho già messi a posto, adesso pian pianino mi faccio anche gli altri. Sì, no, grazie a Dio, è più che una cannonata. Buono al 101%, guarda, bella squillante, perfetta, senza nessun disturbo, magnifica, veramente magnifica. E vogliono così le radio. Gappa, no, bella, veramente bella. Ma se ti fai ascoltare dal corrispondente, sono sempre del parere che quando uno parla deve sentire ciò che dico. Se poi vai a volte tutta magnata, tutta messa male, no, non va bene. Comunque, io sono sempre uscito così, non è che ho cambiato mai modulazione, queste oramai sono le mie radio, la mia timbrica può essere un po' più alta, un po' più bassa, ma la timbrica che uso da 20 anni a questa parte, perciò non ci sono problemi. Ok, cazzo, vedete il mese già? Sai che per stasera si chiude le battenti, cavoli, è passata l'ora, comunque sono contento, abbiamo fatto un bel QSO. Ah, fa piacere anche ascoltare delle varie cose, è una bella passione, anche quella. Passione della radio è una passione un po' particolare, chi ce l'ha è una cosa bella. Non ci sono problemi, infatti è un periodo un po' così, mi prendeva male vedere tutte queste radio, questa attrezzatura, già hai visto, no? È stato raccontato a Valle, e non usarle, e quindi era un po' monotona la cosa, ascoltavo, sì, ho sempre un ascolto, però uno ascoltare, uno parlare con persone civili e educate, l'altro rimane tutto sempre col punto di domanda. Comunque va bene così, io sono sempre qua, per me sono a senso unico oramai, sul canale 10 non mi sposto da qua, tutti gli altri canali per me come non esistono, non mi interessa, e va bene. Comunque rimaniamo d'accordo così, se mi aspetti, se non fai tardi, io prima delle 7:30 sono lì, prima non ce la faccio, non ce la faccio perché è buio, è andata lì, cazzo, me lo truccare, non ho la manna del gode, sono delle scale da fare, c'ho quella pila grande, quella che usiamo, tipo quelli che hanno la polizia, i carabinieri, eccetera, poi si mette a caricare, fanno di luce già vedo, non vedo, però se c'è qualche anomalia, qualcosa, aspetto sempre che esca la luce per controllare bene. Che gli impianti l'ho già segnalato 6 volte, ci sono tutti neon da cambiare, nessuno si prende la briga di mandare un elettricista a cambiare il piccato di neon, proprio una cosa schifosa che non viene bene a dirlo, guarda. Posso immaginare, no, ecco, dai, ti aspetto fino alle 7:30, se dopo le 7:30 non ti vedo, ho capito che non puoi là. E non ci stanno problemi. Io ti aspetto fino alle 7:30, dai. Puoi scendere alle 7:30? Io ti ho letto. Esco alle 7 già si vede già, quindi non c'è problema. Ci metto 10 minuti a fare letture, a scendere ce ne metto 5, quindi 7:15 sarò lì, dai. Non c'è problema, capite? Quindi non farà prima, ci prendiamo il caffè e poi proseguo, vai, tanto uscire adesso per cambiare l'orario, uscirò direttamente alle 7:30, prima non fa, perché tanto è buio presto, io entro alle 6 come servizio, ma oramai non esco più alle 6 perché c'è troppo buio, e quindi aumentando l'ora finiva un po' più tardi, ma non me ne frega niente, perché non posso stare in giro a Rubuccio, no? A Farosa, a quelli cucoli della terra. Sì, capito. telefono che dai o 7:15, 7:15 sono lì, ti aspetto, ti ripeto, fino alle 7:30 ti posso aspettare, a volte non posso perché anch'io se no devo travagliare, vabbè già entro alle 8, ma non è quello, dai, già ti aspetto alle 7:15 sono lì, dai. Ok, d'accordo, vai. Adesso mi metto il coperchio a questa radio, metto tutto a posto e poi me ne vado a andare. Ok, a domani mattina tu. Ciao, tante cosce belle. Ciao, a domani mattina, ciao. Saluto a te, guerra. Passa una buona notte. E tutto a casa, vai. Ciao, Claudio. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao. A domani, ciao, ciao. Ciao, a domani, Claudio. Ciao, ciao.